in primo piano. Mercoledì 31 luglio, ben trovate le ascoltatrici, ben trovati gli ascoltatori. Angelo Miotti in studio per questa rassegna stampa. Cercheremo di non annoiarvi troppo e dobbiamo dirvelo perché qui i tempi della sentenza si allungano e anche gli editoriali, possiamo dire tranquillamente, fanno la stessa fine, hanno la stessa sorte, si allungano pure quelli. Allora vediamo di cominciare dai giornali vicini a casa Berlusconi per capire come reagiscono le prime notizie che arrivano dalla Cassazione. L'ha sentito ovviamente nel giornale radio per quanto riguarda la richiesta confermata dal procuratore generale, anche se c'è questa novità della possibilità di, come lo chiamano i quotidiani, uno sconto. Allora partiamo da Il Giornale. Il Giornale titola: arrestate Berlusconi, tra virgolette, caccia l'uomo fino all'ultimo. Il caso Mediaset in Cassazione, l'accusa concede solo lo sconto di 2 anni sull'interdizione del CAV, ma ammette che ci sono errori. Renzi tifa per la soluzione, non si fa politica coi processi. Questa è la frase che secondo Il Giornale porterebbe a dire appunto che Renzi tifa per la soluzione di Berlusconi. In realtà Salvatore Tramontano, nel suo editoriale La sentenza Marchionne, inizia parlando di Berlusconi e poi dice però che la vera notizia di ieri non è tanto quella della Cassazione su Berlusconi quanto ha detto invece Marchionne sul fatto che lavorare qui, così ha detto, è impossibile, dove qui è l'Italia. Il Giornale, vediamolo subito, già che ci siamo in fase di sfoglio, prima di passare a vedere la composizione delle altre prime pagine dei giornali, abbiamo a pagina 2 il cavo lascia l'isolamento, il momento di restare solo. Oggi però la sua fotografia è più sorridente sul giornale, negli scorsi giorni erano fotografie molto più dimesse. L'udienza, pagina 3, l'accusa apre uno spiraglio, sconto sull'interdizione. A pagina 4, voci, pronostici, sondaggi, la lunga attesa del PDL, e poi Renzi a pagina 5. Libero, mi faranno santo, il virgolettato è attribuito direttamente a Silvio Berlusconi. Silvio, anche se mi condannano, vincerò la guerra dei 20 anni, non finirò come Mussolini. Perfino se l'arresto non continuerà a guidare il centrodestra, c'è già il piano di battaglia. Ecco, sentite, i vocaboli sono importanti, quelli che vengono scelti in questi giorni. Ovviamente la prima pagina di Libero va avanti con la vignetta grafica con il ministro Chieng che lancia banane addosso a Maroni, banane boomerang, la Chieng ringrazia i razzisti. Poi c'è Filippo Facci che dice forza Caselli. E cioè sprona e ringrazia il magistrato di Torino per la questione dei Notav e la contestazione del reato di eversione e terrorismo, e non soltanto, ma anche per altre vicende che riguardano il Fatto Quotidiano, la legge sul voto di scambio e le sue dichiarazioni. Allora, andiamo a vedere le pagine interne anche di Libero. L'accusa chiede lo sconticino per Silvio, c'è già il piano per comandare dal carcere, ed è Franco Bechis che scrive: la storia insegna come perfino il carcere più duro non sia in grado di far ammainare bandiere di questo tipo, è accaduto sotto regimi spietati e accade ancora oggi. Oh, Bechis, allora, che esempi fa per dire questa cosa? Mette Berlusconi sullo stesso piano di Nelson Mandela, che iniziò proprio con una condanna definitiva a pochi anni di reclusione, 5, lo è oggi la carcerazione di Yulia Tymoshenko. Insomma, va a prendere degli esempi un po' particolari, diciamo, rispetto a anche la natura dei processi che hanno subito Mandela e Tymoshenko. Qui parliamo di diritti TV e di frode. Allora, qui c'è anche un'altra ricostruzione grafica, una stadera, una bilancia, come sapete, simbolo della giustizia. Da una parte c'è Boccassini con le mani quasi a difendersi, ed è ovviamente il piatto più basso, mentre Berlusconi sta sul piatto più alto e ha simpaticamente, con un sorriso in mano, il martello, quello che si usa per battere sul tavolo del tribunale, e lo sta per battere, a quanto pare, in testa alla Boccassini. Allora, ancora Libero, vinco la guerra dei 20 anni, alla fine mi faranno santo. Siamo a pagina 4. Pagina 5, governo in cerca di grazia, al piano B di Letta e Silvia. Poi abbiamo Renato Besana che scrive: ideologia e giustizialismo, la DC stragista, Craxi, Silvio, i tribunali riscrivono la storia. Pagina 6, con Silvio fuori gioco l'Italia finirebbe in mano alla Merkel. A pagina 7, l'imputato numero 1 e la Costituzione se la pigliano poi da libero con Travaglio, Il Fatto e la loro campagna contro la revisione dell'articolo 138 della Costituzione. Andiamo al Foglio a questo punto. La grande attesa nel nulla e quel che succede dopo. Tre scenari a voi leggerli. Repubblica, Berlusconi, il giorno del giudizio, il PG della Cassazione, confermate la condanna ma riducete l'interdizione. La fotografia che attira in prima pagina è quella di Wikileaks, Mann incolpevole ma non ha aiutato il nemico, scongiurato l'ergastolo, ci dice Vittorio Zucconi. Chienghe sfida Maroni, ferme razzisti, Marchionne impossibile fare industria in Italia, sono i due blocchi di centropagina. Abbiamo poi gli editoriali Sebastiano Messina, processo senza show e siamo tornati alla Cassazione, mentre l'analisi sulla immobilità della politica è per la penna di Barbara Spinelli, che fa un affresco molto ampio, dove però poi arriva a chiudere su Casa Nostra. Vangelo del Papa che non vuole più giudicare, Enzo Bianchi in R2, Repubblica 2, e anche oggi tornano a commentare i passi della comunicazione non convenzionale sicuramente, anzi stupefacente, di Papa Francesco. Taglio basso Repubblica, Califano non trova pace, senza tomba dopo 4 mesi, e le parole sono importanti e allora aboliamo la parola cancro, oggi firma Umberto Veronesi. Il Corriere della Sera, l'accusa, condannare Berlusconi, ideò la frode ma l'interdizione va ridotta da 5 a 3 anni. Giannelli, la sua matita, sezione feriale della Cassazione, si vedono tutti i giudici che ridono di gran gusto, mentre l'avvocato Ghedini è piuttosto perplesso e i giudici si dicono fra di loro: ma ve lo immaginate voi Berlusconi affidato ai servizi sociali per un lavoro utile? Punto di domanda. Lo sformato legislativo, invece, Michela Inis, che in chiave di editoriale scrive sulle norme scritte per non essere capite, quindi editoriale oggi del Corriere è su altro tema rispetto alla Cassazione. Il racconto dei sopravvissuti nel giorno dei funerali è il taglio medio con la fotografia di una donna disperata nella sfilata delle bare del funerale di ieri a Pozzuoli. Il soldato di Wikileaks è colpevole di spionaggio ma non ha tradito il taglio medio. Poi c'è il prete italiano scomparso, giallo in Siria, padre dall'olio. Vedremo quali sono anche i dubbi che vengono espressi oggi sui quotidiani. E di taglio basso, Isabella Bossi Fedrigotti, non siamo razzisti, dimostriamolo, dopo gli insulti a Cécile Kyenge, la ministra leghista Maroni, fermi i suoi. Attenzione, fondi illeciti e partiti, niente carcere preventivo. E in Germania invece diritto all'asilo per ogni nato, lo Stato paga la babysitter. La Stampa, Berlusconi chiesto mini sconto. La fotografia grande del giornale diretto da Mario Calabresi è per Federica Pellegrini, che ottiene il miglior tempo nel 200 stile libero ma soprattutto va in finale con la striscia nera al braccio in segno di lutto. Infatti la foto la ritrae mentre indica col dito proprio quella striscia che ha voluto disegnare sul suo corpo, proprio perché non poteva mettere ovviamente una fascia in vasca, il pensiero che è rivolto alle vittime del dramma irpino. Il soldato Manning non aiutò il nemico, ora rischia 130 anni. E quella non è Simona, il dramma delle sorelle scambiate al funerale, nel pullman nel viadotto, barriere sotto accusa, sono invece due richiami sotto la testata della Stampa, il taglio medio dedicato alle pensioni per gli statali, scorciatoia pre-Fornero. Il Sole 24 Ore, tassi in calo all'asta BTP, spread in calo, Piazza Affari più nel 64, guida dei destini europei, l'apertura. C'è un grafico che dice italiani in testa nella fiducia sulla ripresa, in luglio il balzo delle aspettative ha trainato l'indice dell'Eurozona, il taglio medio per i bonus edilizi strutturali dal 2014, IMU che è stato il piatto forte del Sole 24 Ore di ieri, tre ipotesi per la service tax al 2014 potrà valere 4,3 miliardi e poi Obama, manifattura strategica, deve pagare meno tasse, molto interessante è quello che dice ovviamente Obama. Il riformismo mancato dell'industria Guido Gentili, ma lo vediamo dopo in fase di analisi dei commenti e degli editoriali. L'Unità, tutta pagina, Cassazione Berlusconi trema, la fotografia grande per il pianto e il silenzio, l'addio di Pozzuoli. C'è la vicenda Kyenge che sfida Maroni, basta fermi gli insulti, razzismo contro la ministra. L'ultimatum della Fiat, Marchionne minaccia a restare, qui è impossibile il taglio medio, la vignetta di Stein è finita a piedi pagina, lui e lei sono piuttosto malconci direi, lui dice gli italiani con il fiato sospeso e le risponde una metà per sapere come finirà Berlusconi, un'altra metà per mettere insieme il pranzo con la cena. Ovviamente grande spazio sull'unità al congresso PD. La questione democratica, scrive Alfredo Reichlin. Emanuele Macaluso, un partito non è un'associazione. Sergio Zavoli, noi il governo, sfida per l'Italia. Il Fatto Quotidiano, condanna da confermare B, ideatore della frode. Nazione in svendita è Stefano Feltri che commenta e anche lui fa in maniera speculare, ma è abbastanza divertente questo fatto, parte dalla Cassazione ma finisce su Marchionne, proprio come ha fatto il giornale. Domani un altro porno, invece che giorno, il gioco di parole, il calembour di Marco Travaglio e l'Alfa Romeo, addio Italia, la minaccia di Marchionne, appunto in taglio medio. Avvenire, il giornale, la conferenza episcopale italiana, a Pozzuolo il dolore alla preghiera per i 38 morti del bus. Il titolo di apertura. L'editoriale oggi è di Pierangelo Sequeri, il Papa, il futuro della Chiesa, la sapienza delle donne, quindi tiene per così dire ad alcune dichiarazioni che ha fatto Papa Francesco sulla necessità di tornare a discutere in maniera teologica del ruolo della donna. Di taglio medio troviamo il caso Mediaset, il PG confermare la condanna, il Cavaliere due punti così instabilità. Poi c'è una civetta che ci porta all'interno, una civetta è un riquadro sostanzialmente che ci porta all'interno, rapito dai caedisti, nessuna conferma, Siria scompera solo due giorni, gesuita italiano dall'olio. E l'ultimo saluto per Ersilio Tonini, cercatore appassionato del bene, Duomo gremito a Ravenna alle esequie del cardinale. C'è Topolino che ci saluta da Avvenire, storico accordo con Disney Italia, come avete sentito già nel giornale radio. Topolino passa a Panini Comics. Il Manifesto, la foto è quella famosa della borsa di Milano. Ha fatto bingo. Chi ha fatto bingo? È Silvio Berlusconi. Alla vigilia della sentenza per frode fiscale, 7 milioni. La borsa di Milano regala alle aziende del Cavaliere 130 milioni in un'ora. Il PG della Cassazione chiede la conferma della condanna d'appello, ma sollecita la riduzione interdizione da 5 a 3 anni, come abbiamo già sentito. Questo si ripete ovviamente la notizia. Entro domani il verdetto, ci dice il Manifesto. E la vignetta di Biani è proprio per Silvio Berlusconi, che si appoggia a una gabbia, una prigione in cui dentro c'è l'Italia. Vado in galera, anzi no, restateci ancora voi. Il Messaggero, Mediaset, ridurre l'interdizione. Dal Messaggero chieggia anche qui Topolino, si trasferisce nella scuderia della Panini, ci guarda divertito. Dimissioni, piano del tesoro, prima tranche, dismissioni, scusate, piano del tesoro, prima tranche da 3,5 miliardi, dice il Messaggero, e beni pubblici di demanio e difesa collocati in tre fondi. Il processo di valorizzazione e cessione degli immobili procede lungo canali differenti, ormai operativa la SGR Invimit, la nuova struttura che avrà indotto un primo pacchetto di 350 immobili per un valore attorno a 1,5 miliardi. Altri 1.600 immobili alla difesa dovranno essere trasferiti al demanio per poi finire un altro fondo per circa 1 miliardo di euro. E 1 miliardo è anche il valore dei fondi a cui sta lavorando la Cassa Depositi e Prestiti. In tutto si arriva quindi a 3,5 miliardi. Secolo XIX, Berlusconi si è allo sconto, ma la fotografia che ci interessa è quella centrale, perché ieri a Genova c'è stato qualche problemino, diciamo così, di ordine pubblico, assalto a Tursi. Per Doria, che è il sindaco, lo scudo dei carabinieri. In realtà la fotografia mostra dei poliziotti, comunque sì, lo scudo dei carabinieri. Genova, varate le aliquote IMU, prima casa 5,8 per mille. Ma torniamo sulla notizia della fotografia. I lavoratori di Aster tentano di sfondare, dice la didascalia dalla foto. Le forze dell'ordine li respingono. Alta tensione a Tursi, assediato dalla protesta contro la privatizzazione delle aziende comunali. Sono arrabbiati a Genova anche per i tagli al teatro d'opera. Il Giorno, Berlusconi, ipotesi scontro, la foto grande per i figli rimasti soli, e sono immagini della disperazione composta, come dicono molti giornalisti oggi sul quotidiano, dei parenti delle vittime del bus di Pozzuoli, dei funerali a Pozzuoli, scusate. E poi segnaliamo il commento di Cangini, Andrea Cangini, un paese in ostaggio, riguarda la sentenza della Cassazione. Oh, siamo alla Padania, rapidamente, la Lega ci salva gli stalker in libertà, non è che sia proprio questo, ma ha posto il tema, quindi è ancora da vedere cosa succederà in Parlamento. La Tobin Tax è un fallimento in Italia oggi, e la Gazzetta dello Sport, Conte ne ha uno per tutti, l'intervista all'allenatore che oggi compie 44 anni, e allora auguri. Andiamo a vedere il meteo. In primo piano. Rieccoci con la rassegna stampa, Angelo Minotto in studio. Vediamo subito allora le vicende di Silvio Berlusconi, dell'imputato Silvio Berlusconi, del leader politico Silvio Berlusconi, come invece rivendica il PDL, che dice e si è opposto alle parole di Boldrini, la presidentessa della Camera, l'altro giorno, quando ha detto che era una vicenda personale, dicendo no, è una vicenda che riguarda 10 milioni di italiani. Di sicuro riguarda noi lettori, perché ovviamente i giornali anche oggi sono infarciti di tanti commenti e di tante pagine ancora. Alcune sono, per dire la verità, un po' un doppione, nel senso che si continua a ricordare quali sono gli scenari. Ieri c'è stata questa novità, quella chiamata dello sconticino nelle richieste del procuratore generale, e però il procuratore generale ha confermato ovviamente tutto il resto dell'impianto della richiesta. Vedremo cosa succederà, pare, oggi. Allora, partiamo con le similitudini strane di oggi fra il Fatto e il Giornale. Sono tagli diversi, ovviamente, ma Salvatore Tramontano sul Giornale parla della sentenza Marchionne, dicendo la sentenza che l'Italia sta aspettando non arriva dalla Cassazione, è più veloce, netta e senza attenuanti. Sotto accusa c'è quello che siamo, la nostra economia, la politica, il sistema paese, la burocrazia, il futuro. Il giudice non ha la toga, ma è un signore che deve scegliere come e dove investire. Si chiama Sergio Marchionne, è l'amministratore delegato della Fiat, e dice ai suoi connazionali una verità amara: se a decidere fosse solo la ragione e non il cuore, non c'è nessun motivo per fare impresa qui in Italia, non è più possibile, è un gioco a perdere. Tasse troppo alte, costo del lavoro non concorrenziale, burocrazia che rende tutto pesante, lento, macchinoso. È come camminare nel fango e andare sempre controvento, e via dicendo. Poi dopo Tramontano alla fine torna a legare la questione Marchionne con quella di Silvio Berlusconi per quanto riguarda la Cassazione. Stefano Feltri invece sul Fatto Quotidiano dice: nazione in svendita. Tra i molti danni inflitti da Silvio Berlusconi c'è quello di aver costretto milioni di italiani a occuparsi delle sue vicende, inclusi l'epilogo di queste ore, invece che di problemi più seri. Mentre noi siamo concentrati sulla Corte di Cassazione, l'amministratore delegato della Fiat Marchionne si permette di dire che in Italia le condizioni industriali rimangono impossibili. Colpa della Costituzione, come ormai è chiaro dopo la sentenza della Consulta, che ha censurato il modo in cui il numero uno del Lingotto ha tenuto fuori dagli stabilimenti il sindacato della FIOM. La banca americana JP Morgan ha sostenuto una tesi che il manager sta applicando con metodo. Due punti. La crisi nei paesi mediterranei è colpa di costituzioni scritte dopo dittature sotto l'influenza della sinistra, che è riuscita a garantire fastidiosi diritti che ora bloccano la nostra competitività. E quindi ora l'incostituzionale Marchionne minaccia di spostare la produzione dell'Alfa Romeo all'estero. E poi Stefano Feltri ricorda che vengono qui a comprare prestigiosi marchi e lui invece li sta svendendo. Allora, il Giornale è il Fatto per due strade diverse, uno per Berlusconi, l'altro in realtà andando a tendere più sulla Costituzione, che è il vero cuore della campagna che sta portando avanti il Fatto, soprattutto in vista dell'articolo 138 della sua possibile revisione, che non piace al Fatto Quotidiano. Affrontano, come abbiamo detto, la questione di bipuntato, come lo chiama Travaglio, in questa maniera. E Travaglio stesso firma: domani un altro porno, cioè giorno, ma c'è il gioco di parole. Or su, signore del PD, non vi agitate, comunque vada a finire il processo Mediaset in Cassazione, cambia poco o nulla, siamo in Italia, mica in un paese serio, altrimenti oggi si processerebbe un vecchio pensionato della politica, già da tempo allontanato dai suoi compari di partito per questioni di decenza e isolato dalle opposizioni e dalle massime cariche dello Stato, che rifiuterebbero di stringergli la mano e farsi fotografare con lui per motivi igienici, e via dicendo. A voi Travaglio in prima pagina sul Fatto. Norma Rangeri dà Il Manifesto: tutti per lui, lui per tutti. Andiamo a prendere soltanto il finale, quando dice, anzi scrive Rangeri: qualche segnale positivo. La giornata di attesa l'ha prodotto. Le azioni Mediaset e Mondadori hanno messo le ali, come se il mercato avesse annusato che per il cavaliere tira buon vento. Se i lauti guadagni in borsa delle imprese berlusconiani fossero l'annuncio di una sentenza favorevole, avremmo non solo la conferma dell'impunità che sempre ne ha accompagnato la lunga carriera politica, oltre a riconoscere che spendere una fortuna in avvocati alla fine è un ottimo investimento. Del resto, quanti Berlusconi sono ospiti delle nostre fatiscenti carceri? Seppure per una volta la legge fosse uguale per tutti, sarebbe l'eccezione e conferma la regola. Naturalmente, una eventuale soluzione totale o parziale è da escludere che sia frutto delle forze assennate pressioni a preservare un assetto di potere che si appresta a chiudere il cerchio della crisi, modellando l'impianto costituzionale nella forma più aderente ai nuovi equilibri. E qui c'è tutta l'ironia che bisogna far risaltare nella chiusa di Norma Rangeri da Il Manifesto. Andiamo avanti, tenetevi forte, ce n'è ancora un po' sulla Cassazione, che è l'argomento del giorno e lo sarà anche presumibilmente domani. Repubblica, siamo a vedere lo sfoglio, direi. Abbiamo pagina 2, confermate la condanna a Berlusconi, interdizione va ridotta, la notizia. A pagina 3, condanna o rinvio le strade della Cassazione, gli scenari. L'ultima speranza del Cavaliere, posso stare fuori dal Senato 18 mesi, poi nel 2015 sarò pronto a ricandidarmi. Questo è il retroscena di Carmelo Lo Papa e Umberto Rosso, ma c'è l'alto là, ci dicono nel Quirinale, al voto subito non se ne parla. Per leader del PDL una possibilità migliore sarebbe un rinvio in appello sull'interdizione. Il racconto, pagina 4, tra i marmi del palazzaccio, il processo senza show al convitato di Pietro Berlusconi. E poi la galassia del Cavaliere che vola in borsa, Mediaset più 3,2%, livelli di 2 anni fa, salgono Mondadori e Mediolanum. Pagina 6, PD, Renzi non esclude la resa dei conti, se lo condannano si accederà a tutto. LK graffia con la sua vignetta i due personaggi in stile LK. Il primo dice: dispiacerebbe sapere che un ex premier è stato un ideatore di frodi fiscali, e l'altro gli risponde: ci piaceva ricordarlo come un maniaco sessuale. Allora, sarebbe un errore far cadere il governo, il nostro destino va separato da Berlusconi. E Stefano Fassina che lo dice nell'intervista Repubblica pagina 6, mentre c'è una fotografia di Romano Prodi pagina 7. Silvio, questo è un paese senza valori, ormai si è perso il senso della giustizia. Prodi, il peggio è stata la compravendita dei parlamentari. Andiamo a vedere ancora altri commenti e altre impostazioni per quanto riguarda la Cassazione. Il Corriere della Sera, eccoci qui, vediamo come sfoglia invece il Corriere, la condanna a confermare, la toga è la causa numero 8, ma ci soffermiamo su Giovanni Orsina, docente di storia contemporanea, che è assai famoso per quanto riguarda Berlusconi, perché ha scritto Il berlusconismo nella storia d'Italia. E Andrea Garibaldi, che lo intervista, gli dice: se Berlusconi sarà condannato in Cassazione, puntini puntini, e risponde Orsina: ho l'impressione che non farà nulla, terrà il profilo degli ultimi tempi, uno statista che si preoccupa per il paese. Berlusconi è un attore razionale, cioè sa scegliere la posizione più razionale, quindi diciamo starà fermo mentre i giudici lo picchiano. Se ci sarà rinvio a soluzione, risponde, il sistema politico avrà qualche mese di maggior respiro, ma poi arriveranno i casi Ruby, De Gregorio, comunque oggi non vedo via di uscita possibile di cambiamento. Situazione bloccata, commenta Garibaldi, e risponde Orsina, perché l'alternativa non è pronta. Dal 2006 c'è un Berlusconi appassito senza berlusconismo. Il clima storico nel frattempo è cambiato dal sogno alla paura. Domanda: non potrà esserci berlusconismo senza Berlusconi? Risposta: Berlusconi potrà fare politica ancora per 4-5 anni, ma da berlusconologo non vedo berlusconismo senza di lui, o meglio, c'è una sola persona e un altro Berlusconi. Volevo scrivere un testo intitolato Il senso di Marina per la politica. Marina Berlusconi potrebbe essere l'unica chance per il proseguimento del berlusconismo con gli stessi pregi e difetti del padre, ma è un discorso astratto anche un po' provocatorio. Andiamo a vedere ancora due battute. Gli elettori di Berlusconi prima o poi dovranno trovare una collocazione, dice il giornalista, risponde l'intervistato. È un elettorato difficile, gente che deve essere convinta a votare con un messaggio contro la politica, come vendere una macchina usata a chi non ne ha bisogno, dicendogli che fa schifo. Lei ha scritto che solo il vecchio leone Berlusconi ha saputo parlare a questi elettori. Nessuno ha saputo né voluto parlare a questo elettorato. Adesso forse c'è un'eccezione a sinistra. E indovinate un po' chi è. Ovviamente il giornalista gli dice: Matteo Renzi. Renzi, Berlusconi di sinistra. Renzi piace a destra perché l'elettorato di destra piace a Renzi. Il che ci porta sulla Stampa, perché sulla Stampa abbiamo... A parte la cronaca, quanto pesa il silenzio di Renzi, che è un editoriale di Federico Geremicca, anzi un'analisi di Federico Geremicca dalla prima pagina, e scrive a pagina 5 dove finisce questo articolo: il suo silenzio sottrae al dibattito un importante elemento di conoscenza. Pur se è vero che su Berlusconi e i suoi guai il pensiero del sindaco di Firenze è sufficientemente noto, infatti ha più volte spiegato che avrebbe votato contro l'ineligibilità del Cavaliere perché le leggi non si possono applicare in termini secondo la convenienza. E più in generale, ben prima dell'inizio del suo polemico silenzio stampa, spiegava: io ho sempre sognato di battere Berlusconi alle elezioni e ho sempre detto di volerlo mandare in pensione, non in galera. Si può, allineando queste dichiarazioni, immaginare in che trincea Renzi segretario calerebbe il suo PD in caso di condanna confermato per il Cavaliere? Molto probabilmente non aprirebbe la crisi di governo, ma voterebbe per la sua decadenza da senatore. Oppure no, tutto il contrario, via dal patto col Caimano e di corsa verso altre soluzioni, o forse addirittura verso nuove elezioni. Difficile dire. E così l'iscritto elettore democratico resta col dubbio, azzarda ipotesi, propone scommesse. Noi diremmo: assurdo, ci vuole chiarezza. E invece magari il silenzio e l'attenzione che quel mutismo oggi determina sono un altro piccolo colpo di un leader che si conferma imbattibile sul terreno della comunicazione. Così sulla stampa. Il Sole 24 Ore invece affronta la questione oltre alla sentenza, riformismo mancato di industria con Guido Gentili, soltanto un passo per capire cosa vuol dire andare oltre. Scrive Gentili: è evidente che la decisione dei giudici sul processo Mediaset può avere, soprattutto nel caso di conferma della condanna dell'ex premier, ripercussioni sul quadro politico di governo. Ma da qui a perdere di vista un quadro generale che resta comunque incerto e che necessita di azioni forti di politica economica, ne corre. Cassazione sì o no o ni, i problemi sono sempre gli stessi, non a caso quelli di un paese bloccato che deve fare i conti con la realtà per ripartire e riprogettarsi in un contesto globale diverso, più difficile e competitivo se davvero vuole tornare ad essere antagonista. Il messaggio direi che è più che mai chiaro, insomma, d'accordo l'attenzione sulla Cassazione, ma attenzione che sono soprattutto altri i problemi che ha il paese e hanno a che vedere ovviamente con la governabilità, ma con i temi economici e poi anche finanziari. Questo era il Sole 24 Ore e ancora per una ultima citazione. L'Unità, abbiamo detto il titolone, Cassazione Berlusconi trema, e lo sfoglio l'Unità velocemente, proprio soltanto uno sguardo, chi sta con Letta e chi no, così parte il congresso PD, ovviamente centrato su il lato PD della questione, cioè come reagirà alla sentenza che dovrebbe arrivare. Ma adesso è il momento di sentire come va sulle strade e autostrade. In primo piano. E allora ancora un po' di politica, ma poca, prometto, per quanto riguarda quest'ultima parte della segna stampa, poi vediamo dei temi dall'estero, ma era giusto per andare a vedere cosa è successo al voto nelle commissioni del Parlamento per quanto riguarda lo stalking, il reato di stalking e il reato di finanziamento illecito ai partiti e non soltanto. Oggi c'è Carlo Federico Grosso che ne parla in un editoriale sulla stampa, ma ci arriviamo prima con una spiegazione, perché andiamo a pagina 17 del Corriere della Sera, ci stiamo arrivando il più velocemente possibile, sentite lo sfoglio, eccolo qua. Cancellato il carcere preventivo anche per il finanziamento illecito, emendamento, oltre agli stalker salvati i falsi testimoni. Che è successo? È successo che, mettendo una asticella a 5 anni, tutti i reati che prevedevano invece 4 anni, per esempio, per quanto riguarda il carcere preventivo, sono andati in malora. Custodia cautelare non per gli stalker, il decreto approvato al Senato prevede la custodia cautelare solo per i delitti puniti con pena non inferiore a 5 anni, la pena massima per stalking è di 4. Falsa testimonianza, stop al carcere. Anche qui, se le cose non verranno cambiate alla Camera, si esclude la custodia cautelare in carcere per chi rende falsa testimonianza. E con l'emendamento al DDL, cioè al decreto legge svuota carcere, presentato dal gruppo Grandi Autonomie e Libertà, non scatterà la carcerazione preventiva neppure per chi finanzia illecitamente i partiti. E le ultime due che abbiamo detto, le false testimonianze e finanziamenti illeciti, hanno un sapore molto politico. Il terzo pare, parrebbe una clamorosa svista. E Carlo Federico Grosso, che è un emerito giurista, su La Stampa commenta in prima pagina, ma noi andiamo a vedere a pagina 7 il succo del suo pagina 7 c'è la notizia, andiamo a vedere a pagina 29, scusate, dove finisce l'editoriale e il commento di Carlo Federico Grosso, cosa dice? Il problema è valutare che cosa si intenda per reato non grave con specifico riferimento alle esigenze cautelari. Una valutazione che non può essere fatta in astratto, ma in concreto, e quindi con riferimento ad alcuni reati, ad esempio le false dichiarazioni, la contraffazione di brevetti, la sottrazione alla possibilità di utilizzo della custodia cautelare in carcere, potrebbe anche essere condivisa. Ma per reati quali lo stalking, reato assolutamente odioso che tocca in maniera prevalente le donne e che molte volte esige l'immediato allontanamento, anche fisico, del colpevole dalla possibilità di avvicinare la vittima, o il finanziamento illecito dei partiti, che è molte volte l'anticamera della corruzione, eliminare del tutto la possibilità della custodia cautelare in carcere è sicuramente una sciocchezza. Con riferimento allo stalking, la reazione bipartisan di alcune donne del PD e del PDL induce a ben sperare su un ripensamento in sede di esame alla Camera. Non vorrei che in materia di finanziamento illecito dei partiti prevalesse tuttavia un diverso orientamento. Forse, a questo punto, suggerisce Grosso, la soluzione preferibile sarebbe ritornare semplicemente al testo originario del governo, che aveva evidentemente valutato che qualche pennellata in materia di custodia cautelare non avrebbe sicuramente contribuito a risolvere in meglio il problema dell'affollamento carcerario. E questa è la saggezza di Carlo Federico Grosso. Vedremo se il suo consiglio sarà letto innanzitutto e poi applicato per quanto riguarda il passaggio alla Camera dopo quello che è avvenuto in Senato. A questo punto giusto dare conto della polemica, e c'è della reazione del ministro Kyenge, che ha detto a Maroni: tieni buoni i tuoi, sostanzialmente, basta così, la misura è colma. La ripercussione potrebbe essere non andare alla festa della Lega, ma in realtà c'è ben altro. Tosi, però, sindaco di Verona e personaggio esponente del Carroccio, dice: valutiamo provvedimenti disciplinari, resta il nostro no allo ius soli, che proprio la Lega non vuole assolutamente vedere nella proposta del ministro Kyenge. Il ministro finora ha dimostrato una grande eleganza nel rispondere agli insulti ricevuti, ma adesso vuole fare la vittima. Per Flavio Tosi, sindaco di Verona e segretario della Liga Veneta, l'ultimatum di Cecil Kyenge a Maroni non ha senso. Bobo è stato chiarissimo, chiedergli di intervenire sui nostri militanti significa solo rigirare il coltello nella piaga. È Rodolfo Sala che intervista Tosi e gli dice: e che volete allora? Un confronto serio e civile sui temi dell'immigrazione? Non condividiamo le posizioni del ministro sullo ius soli, vi dicendo. E Sala chiede: e l'assessore leghista che nel suo Veneto è tornato a paragonare la Kyenge a un gorilla? Sto valutando, voglio capire se davvero quel post fosse recente, contro di lui prenderemo dei provvedimenti disciplinari. E ancora, domenica il ministro sarà a Verona. La Lega ha promosso una manifestazione di protesta, non contro la sua persona, dice Tosi. Questa è un po', diciamo, la tesi che portano avanti molte delle personalità del partito. Non contro la sua persona, ma contro le sue proposte. E a debita distanza, la Kyenge parteciperà a un'iniziativa utile che il mio comune ha patrocinato, una specie di summer school per stranieri. E lei, Tosi, guiderà la manifestazione della Lega? No, sarò fuori città, ma se faccio in tempo passerò a salutare il ministro Kyenge. Non la conosco, quella potrebbe essere una buona occasione. A pagina 9, avete sentito già nel nostro giornale radio, c'è anche il caso del leghista Buonanno, che è diventato famoso per insultare Sel uguale sodomia e libertà, bufere in aula sulla camicia verde, anche Vendola se l'è presa e ha detto a Maroni: tieni buoni i tuoi, parte 2 verrebbe da dire, quasi, no? E a questo punto abbandoniamo davvero l'agone fra il giudiziario e il politico, che tanto si mischiano, e andiamo a vedere invece qualche notizia dall'estero. Quella che tiene banco, come sapete, è quella del soldato, del soldatino lo chiamano perché è basso ed è minuto, ma ha fatto qualche cosa che è rimasto e rimarrà nella storia, e cioè ha dato il materiale per WikiLeaks, è il soldato Manning. E per quanto riguarda la sentenza, Wikileaks man incolpevole, ma non ha aiutato il nemico. Andiamo a vedere Zucconi su Repubblica che attacca così. Colpevole sì, ma non troppo. Il soldato Manning è entrato da ieri per sempre nelle opposte mitologie dei martiri della libertà o dei traditori della patria, con una sentenza che gli risparmierà l'ergastolo. Andiamo a vedere, eccoci qua, pagina 15, scrive Zucconi. Una leggenda del nostro tempo, ma per ora è entrato e tornato in quel carcere dove era rinchiuso da 24 mesi senza processo, anche in solitaria per 12 mesi in attesa della definizione della pena, che secondo i rumors non supererà i 20 anni, ma che potrebbe andare da 136 anni alla scarcerazione immediata per il tempo scontato, a totale discrezione della corte. Vestito nella perfetta alta uniforme della 10ª divisione di montagna, seconda brigata combattente, con i galloni d'oro sottili di soldato di prima classe che fino a ieri aveva ancora il diritto di indossare. Manning, dal 25 novembre del 2009, che cominciò a far scorrere documenti segreti. Non ha davvero prodotto quei danni colossali tattici e strategici che l'accusa aveva cercato di attribuirgli. Non ha perso lui la guerra in Iraq, come non fu Daniel Ellsberg a perdere la guerra in Vietnam, o Bob Woodward a perdere la Casa Bianca per Nixon. Non fu la verità, fu la bugia a distruggere quelle guerre e quegli uomini. Non c'è neppure dubbio sul fatto che lui, senza guadagno, senza corruzione, senza illusione di gloria, abbia squarciato quello che restava dell'ipocrisia e delle bugie militari sulla catastrofe morale e politica voluta da Bush, Cheney e Rumsfeld per esportare la democrazia a cannonate. Fu la clip di un elicottero americano accanito nella caccia a terroristi per le vie di Baghdad che uccise un giornalista della Reuters e il suo assistente, dopo averli prima colpiti, poi inseguiti e finiti a dare il titolo a un documento terribile: Collateral Murder, assassinio collaterale. Così Zucconi su Repubblica. Andiamo al volo sulla Stampa, a pagina 17, parliamo di Cile, perché il Cile si avvicina alle elezioni e la cosa particolare che stimola molto ovviamente la curiosità dei giornalisti è che le due candidate sono amiche ma divise dal golpe in lotta per la presidenza del Cile. Bachelet e Mattei sono figli di generali. Uno, Bachelet, morì per le torture. L'altro, Mattei, che invece è ancora vivo, fu ministro. E Filippo Fiorini vi racconta questa storia. Le due si conoscono, sono cresciute anche tra l'altro in parte insieme, e poi il dramma non soltanto, perché poi il generale Mattei dice in intervista che avrebbe fatto di tutto per salvare il padre di Bachelet, ma che non ce l'ha fatta, ma che lui insomma non frequentava i posti di tortura. In realtà ci sono due testi che lo stanno accusando invece di averlo visto nei famosi sotterranei. Siamo arrivati alla fine della nostra rassegna stampa. L'ultima cosa che vi segnalo è questa iniziativa della Germania, siamo su Corriere della Sera, l'abbiamo citato prima in apertura: diritto all'asilo per ogni nato o lo Stato paga la babysitter. È una nuova legge tedesca che vede anche dei precedenti in varie legislazioni nordiche, interessante da leggere, andatela a pagina 21 del Corriere della Sera. Grazie allora a Carmelo Lauricella per la regia, grazie a tutti voi per l'ascolto, un saluto da Angelo Miotto.